è la luce della ribalta, quella che cerco e mi fa stare a galla. La luce della rivalsa, mentre il foglio si piega e la mano calca, ma la gente non si accalca. Sono il primo a chiedermi quanto il vostro giudizio valga. Sono troppo piccolo, testi troppo complessi. Voi siete troppo grandi e mi guardate coi complessi. Fate pezzi, da batto i contesti sempre gli stessi. Se io crescessi più velocemente voi risultereste più vecchi. Lascio testa rasata alla Shaolin, meditazione, blocco pallottole alla Gino Paoli. Se estendi, RMC, TPP, che ti inventi? La tua vita pesa un filo come Welby. Secchi, tutti i grandi pensatori dei tuoi suoni, nei migliori non hanno colori, stanno fuori. Ma voi signori, l'aria si mozza, derisi come da crozza. Solo un piccolo stronzetto, ma lo era anche mozza. Sciato un gioco sporco, lo vedete, lo capite. Tre vite, il palco salta in aria come dinamite. Clima qua si fa triste, chi ha giocato le sue carte senza assi nella manica e le ha fallite, perfetto. Se mi ci mette mi diletto, una spesa per lo show che vale il prezzo del biglietto. Tutto finto in un mondo spinto, per chi vuol fare due cose senza potere, un po' come Milingo. Tra alti e bassi, maestri di sintassi, il tremento della fotta dentro nelle sinapsi. Non reggi il confronto se non scasse, se vi rubo le rime per essere il primo tra i più scarsi. Poi è normale che si va sul banale, volete fare gangsta ma con me cadete male. Quando vi metto a confronto bamba e sale, e poi fra vi dico di tirare a indovinare. Connetti Marca Braggio ad un beat che spingo rima al bacio come Clint. Per l'hip hop mi chiedo where is the love come Black Eyed Peas. Chi non ci crede qui li scarico come a dismiss. Peace, ma è una questione di genetica. Sopra il micro è una guerra come Guernica. Se dalla fase embrionale è stata roba effimera, quindi io ho vissuto di illusioni alla Miskeland. La situazione è grave a parole, ma se passi e fate azzardo come c'è chi paone. In studio butto i miei risparmi, perché le major muovono gli altri MC. Marionette come Mancis, le teste pop in un gioco sporco, beh, come quelle del Modigliani su a Livorno. Ok, non si insiste, siete come Loch Ness. Qualcuno ti ha visto, ma si sa che non esiste. Oh.